Grazie. Intanto ringrazio la Fondazione Basso e i suoi esponenti per avermi cortesemente invitato a prendere la parola nel corso di questa conversazione che si iscrive in un ciclo appunto intitolato Chiavi della Modernità, i libri. Mi fa piacere di salutare la gentile signora che ci ha in questi primi passaggi introdotto al tema, il professor Cordero, il direttore naturalmente, e avvio subito la mia riflessione che riguarda il titolo, tanto per cominciare, di questo nostro dibattito. La modernità sotto accusa, il pensiero conservatore. È evidente che in questo titolo si vuole indicare, si vuole fissare una sorta sillogismo. Il pensiero conservatore è contro la modernità, perché accusa la modernità. È assolutamente evidente che non è così. Il pensiero conservatore si compone di tante cose. Questi sono autori che più correttamente dovremmo refidire controrivoluzionari e non soltanto conservatori, perché il conservatorismo include un filone liberale, così come include un filone che chiamiamo tra virgolette reazionario. L'espressione viene usata in maniera derogatoria, ma significa soltanto persone che reagiscono a certe impostazioni culturali. E poi non sono contro la modernità, sono contro una modernità. Sono contro una lettura della modernità, non sono contro la modernità tout court. Sono così poco contro la modernità tout court che molte di queste posizioni saranno poi recepite dalla sinistra. In un'opera intitolata La cultura francese nell'età della Restaurazione, Adolfo Modeo ha detto, per esempio, ha messo in evidenza che ci sono molti passaggi dalla sinistra alla destra e viceversa. Noi sappiamo, per esempio, che il nazionalismo nasce a sinistra. Il nazionalismo lo si fa nascere solitamente con quella dichiarazione della patria in pericolo che viene pronunciata durante la Rivoluzione francese e che viene considerata il primo momento in cui si esprime una idea della nazione che non è più l'idea tradizionale della nazione e della patria, ma è una idea ulteriore sulla quale poi si sono scritte tante cose sulle quali poi ci soffermeremo eventualmente in maniera richiamando alcuni altri passaggi. Ma vorrei dire che molte cose della critica della destra alla Rivoluzione francese poi saranno fatte proprio dalla sinistra. Saranno fatte proprio dalla sinistra, se chiamiamo come sinistra Saint-Simon, per esempio. Saranno fatte proprio dalla sinistra, se chiamiamo sinistra il grande teorico del progresso che è Auguste Comte, ma saranno fatte proprio anche attraverso talune mediazioni da Marx. Quali sono i quattro cardini fondamentali nei confronti dei quali si sviluppa la critica? Lasciamo perdere il linguaggio. Sono soprattutto de Maistre, Joseph de Maistre, savoiardo, non francese, savoiardo di lingua francese, ovviamente era italiano, sapeva perfettamente l'italiano, è sepolto a Torino, ma è di lingua francese perché il francese era evidentemente diffuso in quella stagione, come oggi è diffuso l'inglese. Ci sono dei passaggi storici nel corso dei quali si profitta di certe lingue perché quelle sono diventate le lingue delle classi dirigenti. Oggi è l'inglese, allora era il francese. De Maistre è un savoiardo, è un suddito leale e devoto del re di Sardegna, che rappresenta presso la corte di San Pietroburgo per molti anni come ministro plenipotenziario, e di recentissima noblissman, in realtà è un borghese, il padre è diventato conte, ma in realtà la famiglia è borghese, ed è una nobiltà che è tale per il servizio alle istituzioni dello Stato, non è tale per ascendenza feudale. mentre il visconte Bonald è viceversa di antica famiglia, francese. Perché ride, signora? Perché succede spesso così. Perché? Non ho capito cosa dice. Che quelli di antica famiglia nobiliare diventano radical chic, invece quelli... Ah, cara signora! Per i parvenu diventano di destra. Mi pareva chiaro. Se non avevo sentita una leggera ipoacusia, e quindi non l'avevo sentita. Sì, la cosa, sa, la storia è una cosa seria. Gli esseri umani sono molto meno seri, ma la storia è una cosa seria. Io sto parlando di cose serie e quindi non rido. Se poi dovessi parlare di cose poche serie e dovessi mettermi a parlare di cose poco serie, ho un repertorio vastissimo. Mi basta guardarmi intorno per capire quello che valgono gli esseri umani in certe circostanze. Quindi non ho difficoltà, però cerco di dare il senso di quella che è stata la polemica di questi pensatori. La polemica di questi pensatori ha riguardato alcuni aspetti fondamentali. La critica al contrattualismo, la critica all'individualismo, la critica alla distinzione fra stato di natura e stato di società, la critica allo scientismo, la critica alla lotta nei confronti della religione. Se li guardiamo uno per uno, tutti questi loro bersagli polemici, o quasi tutti questi loro bersagli polemici, sono stati poi fatti propri da movimenti che non erano in senso lato di destra. La critica alla... la sinistra ha mai immaginato che ci sia una distinzione fra lo stato di natura e lo stato di società? Lo stato naturale dell'uomo è lo stato di società, non è lo stato di natura. Lo stato naturale dell'uomo è la società. L'individualismo è uno dei grandi bersagli della sinistra. Naturalmente ci possono essere motivazioni diverse, ma basta leggere i grandi maestri l'espressione che usa ad un certo punto Bonal. Gli altri parlano di io, ma io parlo di noi. Il parlare di noi significa pensare alla società come qualche cosa di ulteriore rispetto all'individuo, che non si esaurisce nella somma, mera sommatoria di individui che come tali vengono sottratti a tutti quei legami che fanno parte della società nel suo essere costituite, che vanno dalla famiglia al luogo di lavoro, all'associazione, al volontarismo, alla nazione, alla comunità locale e anche, ovviamente, per certi aspetti, secondo questi autori, in primo piano alla religione. Il contrattualismo immagina un passaggio che rappresenta, il contrattualismo rappresenta una nobile finzione. È una finzione, nel senso che non ci sono contratti sociali nella storia. E, se vogliamo, nobile, perché attraverso l'idea di contrattualismo si assume la presunzio che ci siano dei diritti individuali che hanno una vigenza universale e una loro sostanziale atemporalità, tal che valgono sempre e comunque. Tutti questi aspetti sono stati criticati dalla sinistra, tutti. Non ce n'è uno che non sia stato criticato. Naturalmente ci sono delle motivazioni diverse fra il tipo di critica che poi viene assunto dalla sinistra e il tipo di critica che viene formulato dalla destra, da questa destra, che è una delle possibili destre, ma non è l'unica destra. Prendiamo il caso della società. E la società, nel pensiero di una certa sinistra, diventa statolatria. E questo diventare statolatria la pone in maniera indiscriminata su posizioni superiori rispetto all'individuo. Nel pensiero della cultura controrivoluzionaria, la società non diventa, non dà luogo a sociolatria, così come lo Stato non dà luogo a statolatria. Perché questo? Perché c'è una dimensione della trascendenza rispetto alla quale vi è un riconoscimento fondamentale da parte di questi autori. La dimensione religiosa evita che la società diventi sociolatria, che lo Stato diventi statolatria, che l'individuo diventi una sorta di essere metafisico rispetto al quale tutto si può fare e rispetto al quale non ci sono limiti e non ci sono vincoli. Il grande pensiero di questi autori, che tra le altre cose soprattutto de Bestre, come bisognerebbe pur dire, ma insomma c'è una tradizione orale almeno per la quale si dice, si continua a dire de Bestre, è la presenza e il riconoscimento di una dimensione della trascendenza. La dimensione della trascendenza è un limite, come sanno benissimo tutti quelli che hanno percorso la storia dell'Europa e la storia anche del pensiero europeo. C'è una frase di Dostoevskij: se Dio non esiste, tutto è possibile. Ecco, qui questo riassume bene: se Dio non esiste, tutto è possibile. Ora, non entro nel merito dell'esistenza o meno di Dio, dico che questa è la loro prospettiva. L'esistenza di Dio costituisce un limite alla fattibilità indiscriminata, in primo luogo, del potere nei confronti degli uomini. È stato evocato, e non dubitavo che sarebbe stato evocato, perché i toni sono granghignoleschi e in qualche modo si prestano bene alle contrapposizioni polemiche. È stata evocata la pagina di de Maistre sul boia. Ma cosa dice de Maistre in quella pagina, se la si ripulisce di certe espressioni un po' sulfure? Dice una cosa semplicissima: che se la sovranità non si esprime attraverso la sanzione, il forte prevale sul debole. Questo dice, ma questo è assolutamente vero. Se non c'è un'autorità, se non c'è nella società un'autorità che fissa delle regole, è evidente che il forte prevale sul debole, sempre. E questa è la storia dell'umanità, che può essere solo temperata dalle istituzioni. Si è detto e si è immaginato che questi autori pensino ad una sorta di diritto divino dei sovrani, come se questo diritto divino, come dire, consentisse loro di fare qualunque cosa. Non è affatto così. A parte che sono autori che certamente guardano con grande attenzione alla stagione del Medioevo, e non dimentichiamo sotto questo profilo che che il fondatore della sociologia, Auguste Comte, ha scritto che il Du Pape di Joseph de Maistre è l'opera più importante per la comprensione della storia del Medioevo, ed era uno che conosceva la storia meglio di tanti altri pubblicisti contemporanei. Ora dirò alcune cose sul tema del Medioevo. Per Comte, il Du Pape è l'opera più importante per la comprensione del Medioevo. Perché la polemica di questi autori contro Rousseau? Perché, e qui bisogna capire bene, perché ci dobbiamo intendere, Rousseau assume come suo modello una realtà che è assolutamente improponibile nel mondo contemporaneo. È uscita recentemente un'opera di uno studioso di orientamento liberale, già marxista, Giuseppe Vedeschi, che è intitolata, se la memoria non mi inganna, contro la modernità, il pensiero politico di Jean-Jacques Rousseau. Perché Rousseau è contro la modernità? Ed è una delle critiche che gli vengono poste dal mondo che poi si è ispirato a questi autori e che di questi autori ha colto la suggestione. Rousseau è contro la modernità perché immagina che si possa costruire nell'epoca, nella stagione moderna, che non è nata con la Rivoluzione francese, perché la modernità non nasce con la Rivoluzione francese. Tutta la storiografia ormai ha ben chiaro che la modernità nasce. Ci sono dibattiti, naturalmente, con la scoperta dell'America, con il comune e così via. La Rivoluzione francese è una tappa certamente importante, una tappa che determina delle cesure significative nella storia dell'Europa, ma non fa nascere la modernità. Nel pensiero di questi autori, Rousseau si colloca come un autore antimoderno, perché ha richiamato come modello che prelude alla Rivoluzione francese e che deve accompagnare la costruzione della Rivoluzione francese l'antica polis greca. Ma l'antica polis greca, la polis, era caratterizzata da una subordinazione sistematica della religione alla polis, alla città. Quindi il patriottismo del mondo antico era un patriottismo escludente, perché la religione era la stessa, coincideva con i confini della polis. Questo patriottismo escludente, secondo gli interpreti più recenti, finisce per caratterizzare il patriottismo della Rivoluzione francese, che poi alimenta tutta una serie di percorsi ulteriori. Il grande rimprovero che viene mosso a questa società, a questo tipo di lettura rousseauiano, ed è una critica plausibile, lo vedremo dalle parole stesse di Rousseau, è di avere spezzato la continuità della storia, non avere colto che il Medioevo è una grande stagione, come ormai ben riconoscono tutti quelli che studiano, è una grande stagione della vita dell'Europa. E questa frattura viene giudicata perciò una regressione, non un progresso. Il grande teorico del progresso dice che il riferimento alla polis greca fa regredire. E Rousseau che dice la rappresentanza, le istituzioni rappresentative, quelle che fondano la democrazia dei moderni, derivano da quell'iniquo governo feudale che deve essere cancellato dalla storia dell'Europa. Quindi è Rousseau che esclude il ruolo, l'importanza significativa della continuità storica, fino a negare che la rappresentanza politica, che poi diventa il quadro delle istituzioni della democrazia contemporanea, sia una realtà che debba essere assunta, come modello. E in questo quadro si colloca la critica che questi autori fanno all'individualismo, perché c'è un versante cospicuo della Rivoluzione francese che ha immaginato il rapporto fra l'individuo e il potere politico come un rapporto diretto ed immediato. C'è l'individuo e c'è lo Stato. Chi legga che cos'è il terzo Stato dell'abbate Sillé ne ha ben chiare c'è l'individuo e c'è la legge Le Chapelier, se la memoria non mi inganna, del 1793, vieta la costituzione di organizzazioni di lavoro e così via, intermedie tra l'individuo e la politica e il politico. Questo rapporto senza intermediazioni, che diventa così marcato in Rousseau da giungere fino al punto che Rousseau può dire che la volontà generale può al limite essere rappresentata anche da una persona sola, è uno dei fondamenti del dispotismo della contemporaneità. Ma tutto questo non ha a che vedere con questi autori. Sono certamente degli autori che hanno espresso in qualche modo talune esagerazioni nel loro approccio rispetto alla politica. Sono essenzialmente degli autori politici, non possiamo leggerli al di là di questa dimensione. Per esempio, è in loro carente l'analisi, o è in loro ridotta l'analisi dei problemi economico-sociali, che viceversa diventa più marcata in autori, non so, De Maistre muore nel 21, Saint-Simon muore nel 25, ma Saint-Simon ha già colto molti aspetti della complessità della società industriale, mentre questi autori ovviamente sono più legati ad una società nella quale il mondo dell'agricoltura ha un ruolo molto significativo, che peraltro, attenzione, non è che fosse una cosa di novità assoluta per loro. Basta pensare al pensiero fisiocratico. La fisiocrazia ha sottolineato molto il ruolo dell'agricoltura nella storia della cultura europea. Certo, c'è in loro un duplice livello di analisi: c'è il livello di analisi del giusnaturalismo e c'è il livello di analisi della storia, tanto che un grande filone interpretativo scrive che questi autori sono precursori dello storicismo. Io credo che questa sia un'interpretazione eccessiva, perché in loro la dimensione del giusnaturalismo classico è una dimensione significativa, ma la dimensione del giusnaturalismo classico è la dimensione essenzialmente di una consonanza di valori e di idee fra coloro che comandano e coloro che sono comandati, che impedisce a coloro che comandano di raggiungere certi estremi nella loro gestione del potere. E certamente De Maistre, un autore che non può essere collocato, come è stato da taluni collocato fra i precursori del totalitarismo e la tesi che non ha consistenza. Tutto ciò che esiste non ci piace. De Maistre cita ad un certo punto, attribuisce ad un certo punto alla rivoluzione questa immagine che è straordinaria. Dicono i rivoluzionari: tutto ciò che esiste non ci piace, perché il tuo nome è scritto su tutto ciò che esiste. Vogliamo distruggere ogni cosa e rifarla senza di te. Questa è l'essenza del totalitarismo. Questa è la distruzione di tutto, la distruzione di una realtà completa per edificare l'ordine nuovo è l'essenza del totalitarismo. E loro sono fortemente critici nei confronti di questi. Loro sono per una modernità che si muove lungo i percorsi di una continuità che non provoca rotture, cesure clamorose nei confronti del processo storico. Non sono affatto contro la scienza. Sono così poco contro la scienza che in una pagina centrale De Maistre dice: ma io voglio fare della scienza politica una scienza che abbia gli stessi caratteri delle scienze naturali, sia per quello che riguarda il metodo e sia per quello che riguarda la dimensione epistemologica. Sono contro lo scientismo, cioè contro la riduzione della scienza a ideologia scientistica, che come tale viene utilizzata anche contro i valori religiosi. Ma è una cosa diversa questa. C'è il riconoscimento preciso di un'autonomia della scienza rispetto alla religione come sua capacità di esprimere a sua volta un'autonomia. Sono due dimensioni che perseguono finalità diverse, nella consapevolezza che la scienza raggiunge certi livelli e che la religione è un'altra lettura del rapporto fra l'uomo e il mondo, ma non necessariamente... Sto andando troppo in avanti con i tempi? No, ditemi, bene, ditemi voi, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, ecco, me lo dica lei. Quindi, il discorso di questi autori. Pensiamo al tema, per esempio, della Costituzione. Sono entrambi autori critici nei confronti del costituzionalismo nel senso, come dire, delle scritture costituzionali, ma non sono affatto autori che immaginano che il potere possa tutto. Il potere non può tutto. Bisogna impedire al potere di volere ingiustamente. De Maistre riconosce il diritto di resistenza. Quanti riconoscevano il diritto di resistenza durante la Rivoluzione francese, allorché si mettevano sotto processo e si liquidavano anche fisicamente i cosiddetti sospetti, che cioè non avevano messo in opera nessun atto concreto nei confronti del potere costituito, ma che erano perseguiti solo per il semplice fatto di apparire o di essere membri di un certo gruppo, di una certa professione o di una certa di un certo ceto sociale, cosa che nell'esperienza della Russia sovietica e poi del nazional durante poi del nazionalsocialismo ha avuto forme clamorose. Si tratta di liquidare, di limitare il potere sovrano senza distruggerlo. Le costituzioni, ma ciò che è scritto in Inghilterra è nulla rispetto all'assetto costituzionale. La Costituzione inglese non esiste come tale nella sua formalità scritta, però l'Inghilterra ha una grande Costituzione che è il prodotto di una molteplicità di passaggi, di percorsi storici che, a partire dal limite esposto dalla Magna Carta. A partire dalla Magna Carta, però la Magna Carta la dobbiamo aver letta. Perché se abbiamo letto la Magna Carta, che cosa dice la Magna Carta? Rivendica 1215 per i signori il diritto di essere giudicati dai signori. Questo dice la Magna Carta. Perché sciacquarsi la bocca per la Magna Carta è una cosa. Sottraendosi al potere del sovrano. Certo, perché certamente, perché rivendicavano delle loro libertà feudali nei confronti dei sovrani che volevano modernizzare l'Europa evitando le prerogative ed i pregiudizi e i privilegi della feudalità. Perché questa è stata la grande lotta che ha compiuto, basta leggere Hobbes per avere chiarissimo che cosa è stato il processo di costruzione dello Stato. Il processo di costruzione dello Stato è lo sforzo che si compie per giungere ad una realtà nella quale i privilegi, non solo dei nobili, ma anche delle città, ma anche delle categorie e così via, vengono progressivamente attenuati a favore di una tendenziale uguaglianza dei cittadini davanti alle leggi. Queste sono cose che ha compiuto la monarchia europea trovandosi anche in conflitto con i poteri della feudalità. E la Magna Carta rivendica per la feudalità sia laica sia religiosa il diritto di essere giudicata. E badate bene, Montesquieu, quando parla della Costituzione inglese, lo richiama in maniera precisa. Dice, è necessario che ci sia, c'è in Inghilterra, ed è necessario che ci sia una Camera dei Pari, perché i signori devono essere giudicati dai signori. Montesquieu, il grande teorico, uno dei grandi teorici del pensiero liberale, devono essere giudicati dai signori, perché c'è l'invidia. Se fossero giudicati da quelli che non sono loro pari, soggiacerebbero sempre all'invidia di quelli che non sono loro pari. E quindi è necessario che sia la Camera dei Pari a giudicare i pari. I percorsi della storia non sono mai come ce li vogliono raccontare gli schematizzatori che, per ragioni ideologiche, hanno bisogno di crearsi dei nemici ad ogni costo. Le cose naturalmente sono qua, sono nei libri e sono tutte documentate. Voglio concludere perché non voglio... Ma quando De Maistre, ora concludo con una definizione. Quando De Maistre definisce, potrei parlare dei costumi, l'importanza dei costumi rispetto alle leggi. Voi immaginate che siano le leggi a migliorare i costumi? Guardatevi attorno e ditemi se le leggi stanno migliorando i costumi o se non sono, o se non è viceversa il degrado dei costumi che rende gli uomini poi ostili alle leggi e inclini al proposito di scavalcare le leggi. Bonald, per esempio, è un grande fautore del ruolo e dell'importanza dei magistrati. Il vero governo, e qui riprende una proposizione che è montesquieuiana, il vero governo moderato è il governo dove c'è un ruolo autonomo della magistratura. Questa è l'essenza, secondo Montesquieu, del governo moderato, l'autonomia dei magistrati. Questo tema è ripreso da Louis de Bonald, il reazionario. Naturalmente tutto ciò lo dobbiamo leggere anche nella conoscenza della storia della Francia, perché i parlamenti francesi, che erano poi le istituzioni giudiziarie, erano un grande limite al potere regio. Ma questi parlamenti francesi, in questa operazione di limite, si scontravano spesso con gli stati generali, e quindi lavoravano alla limitazione del ruolo degli stati generali perché volevano tenere la predominanza dei parlamenti come istituzioni giudiziarie, e quindi limitando il potere legislativo del terzo stato, che del resto non viene, degli stati generali che non vengono più convocati al 1613, limitando la funzione di produzione legislativa degli stati generali stessi. Ma veniamo alla democrazia. Cosa dice De Maistre sulla democrazia? Vi dico queste cose perché anche gli autori critici, e che sembrano dire delle cose apparentemente improponibili, poi segnalano dei problemi. La democrazia è un'associazione di uomini senza sovranità. Facciamo il calcolo di quella che è la democrazia oggi, o meglio della storia della democrazia. Noi nella storia della democrazia troviamo almeno tre prospettive di sovranità. C'è l'idea di sovranità collegata alle istituzioni rappresentative, ed è la sovranità nazionale, Costituzione del 1791. C'è l'idea di sovranità collegata al popolo, ed è la sovranità popolare, Costituzione del 1793. C'è l'idea che ha grande spazio nella cultura americana, nel cosiddetto neopluralismo, in ragione della quale idea la sovranità non esiste e non c'è bisogno di sovranità in una democrazia. Quando quindi questo signore, a cavallo fra il XVIII e il XIX secolo, dice la democrazia è un'associazione di uomini senza sovranità, mette in evidenza un grande problema, che ci può essere, c'è costantemente uno scontro tra l'idea della rappresentanza politica come sovranità nazionale, l'idea della sovranità popolare che ha la meglio sulla sovranità del Parlamento, e l'idea che addirittura si possa fare a meno della sovranità, e che quindi tutto il processo politico si esaurisca in un processo di interazione fra gruppi di pressione, perché questa è la teoria del neopluralismo americano. Il processo politico è semplicemente una interazione fra gruppi di pressione. Guardatevi intorno e ditemi oggi, con il primato dell'economia che vuole prevalere sul primato regolativo della politica, se non rischiamo di essere in presenza di una situazione nella quale la democrazia sta perdendo sovranità a favore dei potentati economico-finanziari. Io ho scritto un libro nel 1990 intitolato Denaro e Democrazia, dove ho illustrato con chiarezza tutto il percorso della storia dal pensiero di Platone fino ai giorni nostri su questi temi. quando su queste cose non erano in molti a pensare. E ho messo in evidenza tutti questi problemi e tutti questi rischi. Quindi, come vedete, lui dice, ma nelle democrazie c'è sempre un grande fervore quando nasce una democrazia, perché è chiaro, si abbatte un regime che in qualche modo appare dispotico, però poi dice, tutto ciò progressivamente viene meno. Perché vedete, le democrazie non crollano solo perché ci sono dei movimenti antidemocratici che le abbattono. Le democrazie tendono a trasformarsi. Le democrazie tendono a trasformarsi in sistemi oligarchico-demagogici. E questo è un dato che va messo nel conto. È un dato che va valutato in tutta la sua concretezza. Ancora una volta, guardiamoci intorno. Guardate come sono le classi dirigenti. Perché vedete, se l'unico criterio, e finisco, se l'unico criterio distintivo è il denaro, in che cosa è consistito, secondo questi autori, l'aspetto, uno dei tanti aspetti problematici del processo rivoluzionario, che ha sostituito la semplificante semplificazione alla complessità, come dice Berg, che non era controrivoluzionario, era un conservatore, ma non un controrivoluzionario, riteneva che la rivoluzione francese specificamente si potesse evitare, ma non escludeva a priori il ricorso alla rivoluzione, e sono state eliminate le distinzioni. Ma quando vengono eliminate le distinzioni, non i privilegi, le distinzioni morali, le distinzioni intellettuali, rimane solo la distinzione del denaro. Guardatevi intorno, non solo in Italia, guardate come certi ambasciatori di grandi stati sono nominati tali, perché i presidenti che hanno avuto i finanziamenti poi in cambio conferiscono ai loro finanziatori l'ambasciata a Londra, l'ambasciata a Berlino e così via. Tutto questo è un insieme di problemi. Siccome nessun autore va preso per definitivo, perché ogni autore di quella stagione storica ha immaginato che la sua lettura fosse una lettura che chiudeva la storia, perché i grandi autori sistematici, lo hanno fatto i reazionari, ma lo ha fatto anche il positivismo, ma lo ha fatto anche il marxismo, hanno immaginato che con i loro sistemi si chiudesse la storia. Marx immagina che si chiuda la storia con il trionfo di una certa transizione. Saint-Simon e Conte immaginano che con il trionfo della tecnocrazia si chiuda la storia, e così via. La storia non si chiude, e proprio perché la storia non si chiude, non ci sono sistemi definitivamente superiori agli altri. Leggiamo la storia nella sua problematicità e nella sua complessità, ma attenti bene, quando Saint-Simon e Conte fanno il loro progetto di grande costruzione o ricostruzione della società europea dopo la crisi rivoluzionaria, perché è una crisi per loro, immaginano da una parte il potere temporale, i tecnocrati, dall'altra il potere spirituale, gli intellettuali. Era un'illusione ottimistica, immaginando che gli intellettuali fossero poco sensibili alle risorse del potere economico finanziario, il che quasi mai è, perché gli intellettuali sono per definizione una classe fragile, perché tendenzialmente sono derasinè e quindi hanno difficoltà di appigliarsi a radici forti. Ma ancora una volta c'è questa suggestione di un Medioevo che con i suoi due poteri esercitava il controllo. Mi prendo la libertà di dire al mio secolo, e concludo, che vi è contraddizione, dice De Maistre, tra il suo entusiasmo costituzionale e il suo odio nei confronti dei papi, perché non si sono resi conto che in una certa stagione dello spirito europeo i papi hanno fatto da contraltare al potere politico e hanno cercato di moderarne gli eccessi. Naturalmente noi sappiamo che tutto questo è anch'essa una costruzione teorica, però non vi è dubbio che la transizione dal mondo antico al quale fa riferimento Rousseau, che mette sullo stesso piano politica e religione e li intreccia, e il Medioevo, che fissa la distinzione, anche se poi non la pratica sempre, fra potere spirituale e potere temporale, e quindi fra religione e politica, è una distinzione che ha aperto la strada alla modernità. Non è una distinzione che ha chiuso la strada alla modernità.